Senta, ma lei da sindaco questa vicenda dell'IMU, della restituzione promessa da Berlusconi, non la vedrebbe una buona cosa? No, ma il problema non è che sia una buona cosa o altro, Il punto è quello che è fattibile. Allora, già oggi con la situazione del paese, già un debito pubblico fuori controllo, la spesa pubblica altrettanto, e quindi con l'emergenza vera che è quella di affrontare questi due temi prima di fare la fine della Grecia, e allora trovo improbabile che non solo venga tolta l'IMU, e in questo Berlusconi sta facendo la gara con Monti a chi promette di ridurre di più le tasse, dopo che insieme le hanno messe e dopo che Monti, fra l'altro, poco tempo fa aveva detto che se non avesse messo l'IMU doveva metterla doppia l'anno dopo, adesso pure lui ridurla. Boh. E il fatto di restituire l'IMU pagata l'anno scorso, questo insomma, mi pare francamente una promessa un tantinello eccessiva. Eccessiva. Lei ribadisce che Berlusconi Premier non è possibile nel caso di vittoria del centrodestra? Beh, c'è un accordo preciso firmato da Berlusconi con Maroni, in questo senso, appunto dice che lui non potrà essere né il candidato né il premier, ma per un fatto per una serie di ragioni, per il fatto che appunto Berlusconi è stato prima al governo con noi per poi sostenere Monti e facendo con Monti l'esatto contrario di quello che aveva fatto con noi. Poi anche rispetto a Monti, Berlusconi dopo un anno che lo sostiene lo manda a casa, dicendo che Monti è il male assoluto, però ci ha governato assieme. Dopodiché gli propone di fare il capo di tutti i moderati, dopodiché lo attacca dicendo che è una vergogna che scenda in campo. Adesso appunto questa proposta di neanche solo di togliere l'IMU, ma addirittura di restituire l'IMU che lui ha approvato, e allora è chiaro che serve un candidato premier che abbia un percorso più lineare, più coerente. Tornando al candidato premier, per lei qual è il migliore a questo punto, se non è... Ipotizzando di vincere, è chiaro che non avendo la Lega e il PDL stabilito il candidato premier, bisogna definirlo di comune accordo. E allora potrebbe, anzi dovrebbe, immagino, essere una persona al di sopra delle parti, non può essere Berlusconi perché c'è un accordo firmato in questo senso, e dovrebbe essere una persona, secondo me, che non stia da una parte né dall'altra, che abbia credibilità, che abbia avuto un percorso coerente e che sia una persona che ovviamente abbia anche la capacità di coprire quel ruolo. Io più volte ho fatto il nome del ministro Corrado Passera perché mi pare che abbia questo tipo di profilo, per com'è la persona, per il ruolo a cui ha rinunciato e per l'emolumento principesco a cui si è rinunciato in Banca Intesa per fare il ministro, Sì. per il fatto che quando Monti ha fatto una scelta, secondo me, poco coerente, anche se coraggiosa, ma poco coerente, di scendere direttamente in campo, Passera a quel tipo di disegno, con quel tipo di alleanza, ha detto io mi tiro da parte. Sì. Quindi ha avuto un percorso molto Però lineare, che quello per me è una persona spendibile.